Allora, noi siamo sempre alle dita nella presa e la trasmissione che vi parla di tecnologia di Radio Onda Rossa e qui diciamo, ma avete fregato, perché mi avete chiesto di presentare questo libro, ma io avevo capito che era un libro, tanto una sua cosa, tipo, no, su come fare, che è pedagogia, perché io credevo fosse un libro che mi avrebbe insegnato a fare, diciamo, una serie di pratiche da hacker, tipo, no, bucare siti, cose del genere. E invece mi pare di capire, dato che avevo capito tanto hacker, poi invece ho capito adesso che c'è la parte di pedagogia, quindi, se ho capito bene, è una roba che riguarda invece il come insegnare l'uso delle tecnologie ai ragazzini. Non hai capito bene neanche la seconda volta. allora vi tocca spiegare. Allora, pedagogia hacker sì, ha a che fare con sia con l'hacking, sia con i ragazzini e le ragazzine, ma anche con i grandi, anzi, forse più con i grandi, perché poverini e poverine, le persone grandi hanno quasi più bisogno dei piccoli di capire che cosa stanno facendo quando stanno in rapporto con le tecnologie digitali e che cosa gli succede. Quindi Pedagogia Hacker, perché è un libro che racconta e anche condivide, mette in condivisione una serie di attività e di riflessioni che possiamo fare per capire che cosa ci succede quando stiamo con il nostro smartphone in mano, per esempio. Non solo, ovviamente. Non è un insegnamento. Il libro, ma anche la pratica della pedagogia hacker, non si prefigge di insegnare qualcosa. Piuttosto, quello che si prefigge, l'interesse, è quello di far emergere, nel corso dei laboratori e delle formazioni, far emergere conoscenza nuova. Quindi non trasmettere, come passare da un contenitore all'altro della conoscenza, quindi non è la visione depositaria della conoscenza, ma c'è una visione in cui la conoscenza, le cose nuove si scoprono insieme, lavorando insieme, nell'ottica proprio dell'attitudine hacker. Cioè l'attitudine hacker infatti prevede che si condividano le scoperte che si fanno e si condivida la conoscenza. Diciamo, è un percorso esperienziale quello che si fa, cioè la pedagogia hacker si mette in ascolto perché ci si ascolta durante questi laboratori, corsi, e ci si ascolta per scoprire quali sono le reazioni che abbiamo nella relazione con la macchina, quali sono le relazioni di potere e anche quali sono le nostre vulnerabilità, perché conoscere le nostre vulnerabilità rispetto all'uso delle tecnologie è quello che poi ci consente di aprire degli spazi di libertà. Senti, avete parlato di stare con, no, le tecnologie, e poi avete nominato anche la relazione con la macchina, spero di non aver invece ripetuto male le vostre parole. Quindi sostanzialmente, no, diciamo, nella lettura, no, che dà la pedagogia hacker, il rapporto con le macchine, con le tecnologie, è un rapporto, non dico uguale a quello che c'è con gli esseri umani, però comunque con degli esseri, no? Comunque come un rapporto, diciamo, comunque un rapporto con l'altro, e quindi, diciamo, anche volendo, no, un rapporto con sé, però, diciamo, non è semplicemente, perché in genere le macchine, no, diciamo, il modo comune di raccontare è che le macchine le uso, non con le macchine io ci sto, no? Io con gli amici ci sto, no? Invece dire che uso l'amico è, diciamo, problematico. C'è chi lo fa. però, diciamo, non è proprio un ottimo segno, no? E invece, come dire, usare la macchina, no? O stare con la macchina? Magari vai a dirci due cose su questo. Sì, ok. Allora, prima di dire, per rispondere a questa osservazione, prima mettiamo alcuni puntini sulle i. Allora, Pedagogy Hacker è un libro di Davide Fante e Carlo Milani. Che non sono in questa stanza. Edito da Eleutera nel novembre 2024. Carlo Milani, che fa parte insieme a Davide Fant del gruppo di ricerca internazionale per le convivialità elettriche, che si chiama CIRCE, che sta anche in questa stanza, invece. Carlo Milani ha pubblicato anche un altro libro precedentemente, che si chiama Tecnologie conviviali. Dentro Tecnologie conviviali è un saggio. Quello l'ho letto. Ecco, vedi, per quello ti vengono in mente questa cosa degli esseri tecnici. Ho capito. Perché proprio in tecnologie conviviali Carlo mette nero su bianco questa riflessione relativa al fatto che consideriamo le macchine come degli esseri tecnici, ma non è una forma di animismo, assolutamente, lungi da noi, è semplicemente perché ci serve renderci conto nella relazione che non usiamo gli strumenti, non usiamo le macchine, ma siamo in un rapporto cibernetico con le macchine, cioè siamo in un rapporto di feedback reciproco. Quindi se noi usiamo loro è facile che a un certo punto veniamo anche usate e invece quello che ci interessa è creare dei circuiti virtuosi nel rapporto in cui non ci sta servitudine né da una parte né dall'altra. Il linguaggio dell'informatica è tutto fatto di termini che si rifanno al servire, certo. ma anche quei termini hanno preso piede a partire da determinate ideologie e determinati luoghi. Sì. Se ne potrebbero usare anche altri e c'è chi ci fa molte riflessioni su come cambiare il linguaggio, certo, dell'informatica. L'altro giorno mi dicevi che... Ti dicevo, sì, che c'era la questione del master slave. Ne abbiamo parlato tanto anche altre volte già dall'idea della presa, magari ci torneremo anche, però sì, no, diciamo, ci sono un dibattito, non so se dire recentemente oppure no, proprio sull'utilizzo di questi termini, penso fosse a quello che ti stavi riferendo, insomma è un dibattito che ha avuto poi, che è precedente in realtà, che nasce già nei primi 2000, già iniziava ad essere più ampio, dove più ampio vuol dire tipo che anche le corporation iniziavano a farsi due domande su quanto fosse anche solo commercialmente conveniente continuare a parlare in termini di master e slave e che in termini più recenti, no, la lotta delle persone razzializzate negli Stati Uniti ha, diciamo, dato un altro scossone a una serie, no, di termini che chiaramente attingono dal suprematismo. Beh, mi sentirei di dire in generale, no? Perché poi ci sono master e slave molto di frequente, no? Ci sono i servitori, no? I server non sono altro che servitori. Sì, è interessante notare che per esempio nei sistemi operativi OS X ci stanno i servizi, mentre nei sistemi operativi Unix sono demoni. Non sono, sì, servizi. Quindi, sì, è interessante che c'è questa trasformazione del demone, che è un'operazione che fa ripetutamente sempre la stessa cosa e serve, sta in tutti i vostri computer, serve a far funzionare il computer quando si accende, sì, dei demoni si attivano, e che nei sistemi operativi dell'Apple sono diventati chissà perché da demoni magicamente servizi. Quindi, vabbè, però non ci vogliamo adesso disperdere su questa discussione. Però sempre di pedagogia che stiamo parlando, perché la riflessione su queste questioni sta proprio completamente dentro quello che noi intendiamo per pedagogia hacker, no? E quindi anche diciamo questa questione di essere in relazione con degli esseri tecnici e non usare delle macchine che altri hanno progettato magari, e quindi nella nostra ipotesi la relazione con gli esseri tecnici è una relazione che consente, svincolata dalla relazione di potere, è qualcosa che apre spazi di libertà, che riduce l'alienazione tecnica. Sì, esatto. Hai avuto il voto. C'ho la suggeritrice. Sì. Che riduce l'alienazione tecnica e che quindi in qualche modo evolve e fa evolvere sia gli esseri umani che gli esseri tecnici in funzione di necessità e bisogni che non sono dettati dall'esterno. Questo è un po' il senso, no? Diciamo. Ad esempio, il gancio di cui parlavamo prima è un esempio di tecnologia conviviale, cioè una tecnologia che viene sviluppata da una comunità a partire da delle cose che ci prende bene fare, ci prende bene conoscere gli eventi che sono sulla mia città, ci prende bene promuovere gli eventi sulla mia città, quindi viene sviluppata una tecnologia dal basso per una comunità che poi può essere riappropriata da tante comunità diverse, e questo è un esempio di tecnologia con cui siamo in relazione, dove non si serve e non si comanda, ed è una forma di tecnologia conviviale. Certo, senti, a volte io, no, che diciamo, che sia per questa trasmissione, sia magari in altri contesti, mi trovo a fare questo tipo di discorsi, a volte ho un po' il terrore che questo tipo di discorso sia, no, come dire, su vari strati di astrazione, no, un po' scollato, non dico dalla realtà, però almeno da una forma molto tangibile della realtà, no? Perché anche le cose che abbiamo appena detto, secondo me, sono molto reali, però diciamo, sono reali su un piano, no? Magari anche simbolico, no? Uno potrebbe dire che in fondo il daemon, se tu gli cambi nome ma non ne hai cambiato la struttura, questo è soltanto un nome, no? È incaponirsi sui nomi, ha la sua importanza, però è pure un po' nominalista. Allora invece, come dire, appunto, no? Adesso abbiamo raccontato di come alcuni termini evocano alcune sensazioni, no? E quindi si richiamano subito a dei tipi di, diciamo, di interazione anche tra gli umani, no? Sostanzialmente parliamo di questo, ma come dire, immaginiamo che io invece i termini che sono usati non li so, no? E li sto vivendo, che poi in realtà penso che sia la realtà tangibile, in realtà, di chiunque di noi quando usa almeno molte delle tecnologie, no? Perché può capitare che alcuni di noi siano esperti di qualche tecnologia, ma penso, non lo so, no? Non so, penso nessuna delle persone in questa stanza quantomeno sia esperta di ogni tecnologia che gli capita, magari anche quotidianamente, di usare, no? Tipo, io sinceramente non ho mai capito come funziona l'idraulica di un'intera città. Cioè, il concetto di come mi arriva l'acqua a casa, io devo dire che dubbi. Ho dei dubbi. Cioè, Mecchia l'ho fatto, ci sono dei dubbi. Vabbè, ma una rete. Sì. È una rete molto complessa, molto evoluta, no? Quindi, diciamo, in genere le persone non padroneggiano tutte le tecnologie con cui si trovano. Quindi, naturalmente, ci si trova poi, appunto, ad avere sempre, no, delle cose in cui la cosa la si vive e basta, no? E, ecco, quindi magari ci potete fare degli esempi di come invece questi concetti di relazioni servili non nascono soltanto se uno fa la genealogia e se legge la biografia di quello che l'ha inventato e guarda il modo in cui le cose si chiamano, no? Il nome in codice del progetto, no? In cui l'ha fatto, e fa questo tipo di genesi, pure importante, ma invece magari, come dire, le persone che utilizzano le tecnologie questa cosa la percepiscono nel momento stesso in cui vanno a trovarsi, no? Ha fatto una domanda troppo, io li vedo spaesati. È un po' zigogolata la tua domanda. Sì. Però vai. Uno spunto che raccolgo io da questa riflessione è che riprende la questione dell'alienazione tecnica e del fatto che con la pedagogia hacker andiamo a osservare anche quello che succede a noi, per cui non serve andare a capire chi ha scritto quel nome. Sì. Partiamo anche semplicemente da come ci sentiamo noi. Io quando ho lo smartphone in mano e mi arrivano le notifiche, che cosa mi succede? Come mi sento? Perché certe volte lo tiro? Perché certe volte sto sempre a guardarlo? Cosa provo? E quindi partiamo dal riflettere sui nostri comportamenti in relazione a quello strumento. Da quello si tira il filo e si capisce, ad esempio, una cosa che è molto importante nell'ambito della pedagogia hacker, che è importante in realtà per tutto, è che non dipende da te. Cioè, non andiamo, se te stai male quando ti arrivano le notifiche, o se te sei vittima di cyberbullismo, o se, anche se sei un cyberbullo, non dipende da te. Cioè, è un problema sistemico, è lo strumento che è progettato in un certo modo. Quindi noi, a partire da esperienze dirette, osservando le nostre esperienze, senza delle risposte predefinite, ma ragionando con le persone con cui lavoriamo, tiriamo fuori dei fili, che spesso arrivano anche a ricostruire quella che è l'ideologia di chi ha progettato quello strumento specifico. Tu alla sua riflessione arzigogolata invece... Io alla sua riflessione arzigogolata, non invece, ma anche... io seguo la tattica, diciamo, Nostradamus. Se la dici abbastanza complicata, così probabilmente qualcuno qualcosa ci ricava. Certo. No, io anche direi che, appunto, proprio con questo approccio esperienziale al guardarsi e guardare, togliere gli strati della superficie e capire che cosa ci succede, arriviamo per esempio a capire che quando diciamo il demone intendiamo il fatto che andiamo poi a scoprire che ciascuna applicazione, ciascun social, ciascuna piattaforma ha il proprio demone, inteso proprio come il proprio... Questa volta non il demone di Unix, come si chiama prima. No. Ma proprio lo spiritello. Ma proprio lo spiritello. Il genius loci. quello che è l'attitudine, quello che a che serve quell'applicazione, quella piattaforma, e quello che viene spesso fuori, soprattutto con le... diciamo, con le piattaforme delle big tech, con le applicazioni delle big tech, è che appunto sono costruite per fare in modo che noi, che tutti, adulti e bambini, siamo il più possibile, rimaniamo attaccati, perché sono costruite con il meccanismo della ricompensa, e che quindi ad ogni ricompensa giù una bella scarica di dopamina, e quindi a lei è arrivato un like, scarica di dopamina e io sto sempre lì, quindi ricostruiscono un rapporto anche di potere, cioè sono fatte apposta per tenerti lì sopra, e questa è una cosa a cui si arriva le persone. È interessante questa cosa, perché diciamo, io infatti mi farebbe piacere anche parlare un po' di come vanno questi corsi che noi facciamo. Ma Grafio, ci vuoi raccontare com'è andata l'esperienza con una terza superiore a Roma? No, allora, no, aspetta, ma io, allora, quello che volevo dire era questo, lo racconto volentieri, era una delle cose che vorrei fare, è una delle cose che vorrei fare. Quello che voglio dire è che finora abbiamo parlato di tu dicevi sembrano astratte, però in realtà è interessante vedere come gli cade la mascella a questi pischelli quando scoprono loro stessi qualcosa di una relazione che hanno con la propria tecnologia. E quindi da questo punto di vista, neanche mi ricordo qual era la tua domanda arzigogolata, però mi sembra che questo sostanzi molto il tema del come si applica, come si pratica, diciamo. Sì, no, ma penso che mi hai comunque risposto, nonostante appunto la mio modo contorto di esprimere, perché mi hai raccontato che sostanzialmente le persone che fanno questo tipo di pedagogia partono dalla loro esperienza concreta e da questo poi scoprono, come dire, mano a mano alcune caratteristiche che, volendo, uno può pure dire che le può scoprire anche in un'altra maniera, però le scopre a partire dal tuo modo di relazionarti con la tecnologia, quindi non in base a delle griglie predefinite, no? Per cui siccome uso una cosa che viene da quella tecnologia, allora questo automaticamente mi trasmette dei valori, perché no? Perché c'è una serie di sillogismi che ho letto sul libro, ma invece lo vedo dalla mia esperienza, no? Che io... L'esperienza di gruppo, anche nel senso che queste cose si fanno insieme, quindi ti confronti con l'esperienza delle altre persone che stanno facendo questo percorso, perché è anche importante che dalla cosa personale si passa a comprendere che ci sono delle cose che condividiamo tutte e che quindi diventano di nuovo politiche, cioè non è più una questione solo tecnologica. Certo, questo mi sembra veramente molto... molto interessante. Non so, se ho una specifica domanda da aggiungere a questo, se non forse quella di dire, non lo so, la parola hacker è una di quelle parole contese, no? È una parola che forse un po' di anni fa, come dire, era una di quelle parole che nasceva con un intento dispregiativo o comunque un po' ai margini, e poi c'era chi se la rivendicava. Ora invece hacker è chiaramente una parola contesa. Nel senso, vogliono essere hacker le guardie, vogliono essere hacker le persone curiose, vogliono essere hacker chi fa il corso di programmazione all'università con cui ti garantisce un avvenire luminoso nel mondo del lavoro. Sembra che hacker sia una parola contesa e che hacker sia qualcosa che devi essere, in qualche maniera. Da questo punto di vista, come dire, pedagogia hacker, qui voi avete parlato di come fare pedagogia nel rapporto con le macchine, ma come dire, da quale, quale delle mille definizioni di hacker voi qui riprendete? La definizione che riprendiamo di hacker è quella, diciamo, più gioiosa, nel senso che è proprio quella che vede nell'hacker la persona che è curiosa delle tecnologie, che è curiosa di vedere come funzionano, non deve per forza veramente saperci fare, ma basta avere la curiosità e anche la voglia di mettersi in gioco. Infatti una cosa che facciamo spesso nei laboratori, specialmente con le persone più piccole, quindi bambini e bambine, è pensare a una cosa hacker che hai fatto. E tutti dicono: ah, no, Dio, ma cosa? Sei hacker anche con la tecnologia analogica. Puoi essere un hacker delle biciclette, un hacker dei camion, un hacker che giri l'ombrello, ci raccogli la pioggia invece che coprirti dalla pioggia. È un piccolo hack. Una ragazzina in uno dei laboratori mi disse: ah, come life hack che stanno su Instagram. Sì, ok, sono piccole cose, che vuol dire l'hack è cambiare, è attraverso una scorciatoia e cambiare la destinazione di uso di uno strumento tecnologico, che appunto può essere digitale o analogico. La cosa importante è che sentirsi hacker, rendersi conto che siamo hacker, che non è necessario essere dei geni della programmazione o essere, sapere tutto su come si smanetta su uno smartphone, ma per essere, si può essere hacker anche in un sacco di altri modi, e questa cosa ci ridà potere, perché l'hacker essenzialmente è, perché tutti lo vogliono essere, c'è questa cosa, perché l'hacker è una persona che ha potere, l'hacker ha un potere. Che questo potere è una responsabilità, che cosa ci fa non lo so, non mi piace la distinzione fra hacker etici e hacker non etici, perché preferirei casomai quella fra hacker estetici, quelli belli e quelli brutti, però l'hacker ha un potere e questo potere deve essere ridistribuito, per questo pedagogia hacker, perché diventiamo tutti hacker e tutti ci riprendiamo un pezzo di potere, dobbiamo sentire che abbiamo il potere di interagire con le tecnologie, non soltanto subirle, quindi questo è. Io con questa chiosa andrei proprio ad andare quindi ad uno stacco musicale, e dopodiché possiamo passare con il terzo e ultimo argomento della giornata no, di oggi. No, scusami, no, ecco, no, quindi, invece no, non siamo d'accordo. Non c'è nessun modo più facile di ottenere ulteriori risposte? No, nel senso che io, proprio perché io vorrei raccontarveli un po'... I corsi del, cioè dopo, ah, dopo, dopo allora, lo allora te lo chiedo, perché non ci racconti te lo racconto dopo il prossimo stacco musicale, sei contento? Los planes ya no sean los mismos. Reflexiono mientras pienso en diferente algoritmo. Quizá mi cuerpo ya no aguanta ese ritmo. Y mis niñas lo conocen, ya beben vino tinto. Los parques y los bloques que nos vieron crecer. Solo hay guiris con sus trajes y billetes de 100. La vecina ya no baja, ya no sale a atender. Ya no veo por la calle ni a Ramón ni a José. Hemos crecido a la velocidad de hostias y tenemos la cara de saber hacer sin estas. Tengo un par de heridas que parecen las de otras, que si tú nunca padeces es normal que no puedas llorar. Una laguna tras otra, no sé si me explico. Tengo recuerdos borrosos y algunos abanicos de festivales que por poco y pico no repito. Y chitón, chapa el pico si este no es tu sitio. Que ya no somos las mismas, no sé. Vivir de barras que olvidamos y escribimos ayer. Olía tabaco, ahora la casa siempre huele a café. Antes de fast food, ahora amigas y un guiso pa' comer. Entre dos aguas. Bailando borracha en la fiesta, yeah. Con los ojos cerrados y las heridas abiertas. Me agité por si miraba, no te diste la vuelta. Poniéndote el amor en oferta. El pan lo reparte la misma mano que reza. Y se miente con la misma boca con la que se besa. Las puertas de mi casa siempre están abiertas. Nos arrejuntamos pa' hacerte hueco en la mesa. Por el barrio con el chándal champion to guarro. Comprando barato en el mercado, ¿a cuánto? Dos menos cuarto. Haciendo guisao pa' cuatro. Nos ensuciamos las manos, comemos del mismo plato. Fácil, en que li una tarde de tranqui. Leyenda Granchi, Popolo Avanti, Praxis. Pasando al party de Strange y mami. Cómo te aprietan los panties. No los rompes, pero casi, casi. Tati, dejo que me roneen, pero no que me casen. Tú tan dentro de mí, parece sangre de mi sangre. Ya sé, no me enfado, pero me da coraje. Padres, perdónales porque no saben lo que hacen. Cara de ser tan guapa, va con el chándal y los oros en la chulapa. Con esos ojitos que todo lo ven, tía. Vuelve a mirarme en plan de que suerte la mía, va. Ay, como el agua que baja del monte, ya mi fuente clara no es la misma que bebiste. ¿Dónde quedan los nudos que no se rompen, que no me despiste? Mi mesa está llena de cucharas como un narcopiso, el panorama en crisis. Hicimos de la música una family, tribulo Brady en Navidad, portal MC, rata, patino y cheese. Guardo la despensa, buen recaudo pa' mis cangris. Tengo a mi padre dándole gracias a Shiva y a la mamá respira de una vez tranquila y... Mi hermano un buen padre, coño, ahora soy tía. Y más claro en los días, qué alegría. En la casa estoy chillin', don't worry for me. Si no quiero salir, que si un día aprieta mis hermanas pedirán por mí. Feeling de lo que me ha tocado vivir. Que ya no somos las mismas, bueno, ahora búscame los classics. Entre dos aguas, entre dos penas. E torniamo in onda sulle dita nella presa dopo aver ascoltato lo stacco musicale. Visto che intanto ci chiedete il brano, qui il brano era di Tribad ed era Entre Dos Aguas. E noi rientriamo continuando a parlare con la domanda che qui il mio incontentabile ospite voleva che gli facessi, ma non voleva che gliela facessi subito, e allora gliel'ho fatta dopo lo stacco musicale. E la domanda che, diciamo, spontaneamente ti chiedo: ma raccontaci alcuni di questi laboratori che avete fatto. Di pedagogia hacker. Siamo sempre parlando di pedagogia hacker. Sì, brava, brava, esatto. Corsi di pedagogia hacker. Allora, intanto ne facciamo tanti. Hai anche chiuso il microfono? Perché non ti... No, mi senti? No, vai, adesso sì. Ok, forse ero lontano. Laboratori e corsi di pedagogia hacker se ne fanno tanti anche in giro per l'Europa, dobbiamo dire. In università, scuole, situazioni di movimento, spesso anche. E io oggi però mi vorrei soffermare su i corsi di pedagogia hacker nelle scuole, sia agli insegnanti che agli studenti. Peraltro con una particolarità, perché grazie a qualche dirigente scolastico illuminato e alla pressione di qualche insegnante che ci aveva conosciuto. Il primo caso rarissimo, il secondo già meno. Sì, esatto. Infatti... Comunque caso raro, insomma, non è sì. Che stiamo parlando di migliaia di... Però questi corsi sono stati finanziati dal PNRR. Incredibile. Sorpresa, quindi... Sorpresa, anche per noi. E non avete messo nemmeno, che ne so, una paleolica. Ma no, sorpresa no. Anche per il PNRR. No, è certo, cioè, no, mi riferivo a quello. Perché, diciamo, se non... Esatto. E senza cambiare il nome, cioè erano corsi di pedagogia hacker, così, detti così, quindi va bene, insomma... E allora, si sono sostanziati, sono stati corsi che sono durati alcuni, tipo una volta a settimana per qualche mese, e questi principalmente sono stati fatti online e con qualche inizio in presenza, diciamo, e soprattutto agli insegnanti. E devo dire che mi sono un po' stufato io di fare i corsi online, perché dopo ormai dalla pandemia in poi ne abbiamo fatti tanti e quelli che riusciamo a fare in presenza hanno decisamente una marcia in più, proprio perché parliamo di un approccio esperienziale, chiaramente potersi vedere il proprio corpo, come ci si muove, come si sta seduti, tutto questo conta e chiaramente online conta meno. Te lo perdi, un po' te lo perdi. Per quanto noi, per esempio, vabbè. Facciamo delle attività o delle attivazioni che trasponiamo dalla presenza all'online, diciamo, alzate la mano un po' di più se siete in fissa con la tecnologia per la comunicazione, per esempio, cose così, scemenze così. Comunque, mentre quelli con gli studenti, in particolare abbiamo fatto questa esperienza con una classe terza di un liceo di scienze umane, una scuola, sì. E sono state 2 settimane, 3 ore al giorno per 5 giorni a settimana, quindi è abbastanza intenso. Abbastanza intenso. Non è una cosa tipo un pomeriggio. No. No, no. Per la prima volta finalmente un ciclo di 30 ore non ci sembrava vero, perché veramente avere tanto più tempo hai e più le cose vengono bene. Quando facciamo laboratori, che spesso la gente non ha tempo e quindi ci dicono no, abbiamo solo 2 ore, viene un po' un assaggio di cose. Quando hai un ciclo di 30 ore veramente puoi cominciare ad andare a fondo le cose e anche lavorare su una vasta gamma di questioni che poi compongono tutte un unico disegno, quindi 30 ore, meno male, e poi ovviamente per chi lavora con le persone, con i ragazzini e le ragazzine, sa anche che insomma 3 ore al giorno vuol dire che poi magari concretamente ci stai un'ora non tutta di seguito a tirar fuori cose, il resto è distrazione, laboratorio, cioè non è proprio, ci vuole tempo per stare insieme. Sì, e ci vuole tempo per stare insieme. Tra l'altro devo dire che io mi sono abbastanza anche stupito del fatto che questi ragazzi comunque sono stati, cioè hanno partecipato parecchio, sono stati attenti, attivi, e quindi per me è stato una scoperta e un piacere, insomma. No, non lo tocco più questo. Scusami. A proposito di rapporto con la tecnologia, esatto, no? Niente. Vabbè, ma queste sono più il mio stress. Vabbè, ma comunque. Quindi durante queste 30 ore abbiamo potuto, diciamo, noi spesso abbiamo dei laboratori che facciamo in 2 o 3 ore, no? Che ne so, uno, quello classico è giocare o essere giocati, che è sempre appunto con un approccio esperienziale, sì. 2 persone giocano con i giochi a partire dai primi, il primo del 60 fino ad arrivare videogiochi, grazie, fino ad arrivare davvero informale, tu assumi che i giochi sono i videogiochi. Cioè, anche se sono cresciuto per strada giocando a pallone, ma vabbè. Però, ma poi sì. Si dimentica poi dimentico, esatto, e fino ad arrivare al primo Doom, e ci sono a turno 2 persone che giocano e gli altri che registrano che cosa succede nello schermo, con un'attitudine, diciamo, sia hacker ma anche cioè noi quello che diciamo è svuotate la mente, non dite la pallina se lì invece c'è un quadrato bianco, per esempio, che si muove, no? Quindi la capacità di osservare i dettagli e il nocciolo, quindi capire le proprie reazioni e cercare di individuare diciamo lo scopo anche ideologico del gioco, cioè come era situato in quel periodo storico in cui è nato e come sono tutti i vari meccanismi dei punteggi e così via. E finito questo processo di gioco, si chiede quali sono i social o le piattaforme che più usano, e si fa, diciamo, un'analisi dell'interfaccia di queste piattaforme. Trovando... Per prima, no, le persone giocano, per esempio, tipo, non so, a Pac-Man, no? O a, esatto, Doom, tu hai nominato, no? Esatto. Dico, 2 nomi famosi. A Tetris, sì. No, cioè, sono 2 persone che giocano e le altre che, come in sala giochi, diciamo, tutte quante le altre che guardano e, diciamo... E osservano e scrivono le cose che osservano, sia... cosa succede sullo schermo, perché le 2 persone giocano e il tutto viene proiettato su uno schermo, e sia alle persone che giocano sia alle persone che stanno intorno, per, certo, cui anche lì c'è il tifo. E poi con i social network la cosa come funziona è sempre uguale, quindi c'è una persona che sta su Instagram e gli altri che lo guardano stare su Instagram o invece no. Ognuno analizza se stesso a quel punto? Quello che succede è che finito il giro di giochi con i videogiochi diciamo bene, adesso giochiamo ai social media, tutti, specialmente i bambini, ma non sono dei giochi. Ah no, vediamo, giochiamo a Instagram, come si fa? Allora qui lì facciamo tutti insieme, si mette Instagram okay. Sul grande schermo e si cercano gli elementi che abbiamo individuato nell'analisi di interfaccia con i videogiochi che ci siamo messi su un pannello lì di lato, certo. Si cercano dove quegli elementi, se ci sono dentro il gioco di Instagram o di Facebook, no Facebook no perché per i vecchi, con le bambine non si gioca. Poi dipende da con quale età, dipende con chi stai lavorando, vecchi senza offesa ovviamente, e quindi si fa tutti insieme a quel punto. Cioè l'offesa è per Facebook diciamo. No cioè, dico chiaramente. Sì, esatto. Senza non per le persone. Sì, no. E, quindi si fa tutti insieme a quel punto il gioco con i social media. E quindi individuando gli elementi che sono stati nel gioco dei social media, individuando gli elementi che sono stati riscontrati nei videogiochi, viene fuori la gamificazione che c'è in quelle piattaforme, perché poi le persone scoprono che i punteggi che hanno visto nei videogiochi vengono ritrovati nei, che ne so, quanti like c'hai, quanti follower, certo. Quanti post hai fatto e così via. E quindi questo è un esempio di questo per fare questo gioco se ne sono andate, sono andate via tre ore in cui, certo. In cui appunto questo è stato uno delle volte in cui questi ragazze gli è caduta la mascella scoprendo quanto stavano giocando pur non sapendo di giocare, certo. Pur non potendo decidere le regole del gioco, e quindi in questo senso la piattaforma è gamificata perché tu sei dentro un meccanismo di gioco non sapendolo, non essendone consapevole, certo. A differenza del videogioco, il videogioco non è gamificato, no. A volte hanno anche delle sottotrame di gamificazione interne, ma c'è almeno un gioco a cui sei consapevole di giocare. Eh sì, pensano quando gli dici no, gli è caduta la mascella, forse quello che magari no, magari ci siamo dimenticati che c'è già successo, no? A noi, perché non è che poi no, questo tipo di ragionamenti cioè, ci siamo no, in qualche modo. Non siamo nati imparati, questo vuol dire. Sì, ma non sono nemmeno già nato in un ambiente in cui questo no, anche fossi nato imparato, magari ero nato imparato sulle cose di quando ero nato. Se no, astrattamente non nasce imparato, invece queste qui sono arrivate e quindi tutti quanti noi le abbiamo scoperte. E quindi diciamo è una mascella che c'è già caduta. Diciamo questo è un esempio di forse il più caratterizzante di laboratorio. E il tutto era diciamo inserito all'interno di un contesto in cui sti ragazzi avevano a disposizione un cloud, la propria casetta, ovviamente fatta con Nextcloud, quindi tutto questo ragionamento. L'altra cosa che a me stupisce molto, con degli strumenti autogestiti. Quindi di nuovo sì. Tecnologie libere, conviviali e così via. Tu mi interrompimi se vuoi. Io l'ultima, insomma, un'altra cosa che volevo dire, che mi sorprende tutte le volte e forse non dovrebbe sorprendermi più, ma continua a sorprendere, è che su qualsiasi cosa, a prescindere che si facciano questi corsi con adulti o ragazze o bambini, è il fatto che non va dato niente per scontato. Cioè quando tu dici andate a questa URL, le persone la URL glielo devi spiegare che cos'è, quando tu, cioè, ma veramente tutto. E allora perché la questione è che loro sono abituati ad essere immersi in ambienti pieni di tecnologia in cui la tecnologia viene praticamente nascosta, sì. Anche se hanno un cellulare in mano tutto il tempo, mentre invece la cosa importante è che la tecnologia sia visibile affinché ci sia consapevolezza del fatto che si sta interagendo con la tecnologia. E quindi su tutto questo, qualsiasi cosa si dica, loro cadono dal pero e poi gli cade la mascella quando la scoprono, oppure vedi questi occhi che si illuminano per... Ma del resto non penso che possa essere diversamente, no? E, no, e sono sicuro che non c'è, come dire, nessun aspetto, no, di accusatorio, no, in quello che raccontavi, ma l'accusa qui è nella considerazione, no, che questa, diciamo, no, che questa strutturazione sociale della tecnologia si basa tutta quanta, perché ho detto, no, la tecnologia è nascosta, ma in questa società è anche contemporaneamente esibita, no? Cioè, no, pensiamo a quanto adesso mi vengono in mente, no, così la prima cosa proprio che, no, che mi salta in mente è a quanto spesso le istituzioni, no, no, si vantano delle tecnologie avveniristiche, a volte anche con risultati comici, ma anche quando hanno risultati comici, no, del, no, c'era chi voleva fare la blockchain per tracciare il pomodoro, ma anche quando invece magari una cosa, no, vagamente più con i piedi per terra, no, che ne so, il, no, del sistema che funziona, no, la tecnologia in genere è un trofeo, no? che si esibisce, no? Su tutti quanti i piani. Io sinceramente non mi spiego in altra maniera il numero sempre più crescente di fotocamere sugli smartphone, se non con il fatto che tu, dato una volta che tutti quanti hanno una fotocamera, tu devi continuare a mostrare sempre di più degli oggetti, no? È l'equivalente dell'alettone sulla macchina, no? Quando metti l'alettone sulla punto. Cioè, lì il concetto è che tu vuoi fare, non ti basta aver modificato il motore, tu vuoi fare in modo che tutti sappiano che tu hai modificato il motore, altrimenti non vale il gioco. E quindi c'è da una parte questa grande esibizione della tecnologia, però sempre anche con mai raccontandola per quella che è, no? Cioè, diventa un po'... Infatti quello che si trova, quelle offerte dei corsi del PNRR per docenti erano soprattutto... cose di usa bene Google Drive, corso per usare bene ChatGPT. Sono corsi di addestramento. I docenti vengono addestrati a utilizzare determinate tecnologie senza che nessuno gli spieghi e formi queste persone a un approccio critico a queste tecnologie. Infatti, quelli che sono cascati nei nostri corsi, che l'hanno visti nell'elenco e si sono iscritti, sono state persone molto felici perché si sono finalmente ritrovate tra di loro, hanno detto, ah, ok, allora non sono sola a sentirmi così a disagio in questo mondo in cui devo sapere usare bene Google Drive, cioè rendiamoci conto, un corso per usare Google Drive. Quindi, certo. Per prendere il tuo discorso, sì, il problema è addestramento versus approccio alla conoscenza critica.